Potrò scordar casetta mia, in questa notte stellata la mia serenata io canto per te. Romagna mia, Romagna fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti io canto per te.